barriera. Venire a dirmi cosa ne pensi del posizionamento così della copertura. Altri due o tre? Amore, hai per caso visto quella busta, cioè quella scopa brutta qui? No, ho visto solo quella che usavamo prima per pulire nella botte e la brutta non l'ho vista. Prendi quella che usavamo per pulire i secchi, senza manico. Ciao Mari! Ciao Mari, sentendomi stai? È vero? È vero? Senta brava! Ciao Mari! Sei brava! È vero, è tricchia! Pronti siamo, Gio Mari! Cos'è? Se siamo pronti! E a cosa? E beh, a cosa sei pronto? E non fa ridere! A Parigi! E lui! E Gio Mari! No, che so come va vedendo con Luca! Ah, con Luca stai parlando! Ma a Piabere! No, a casa sua, Socco, che siamo posati, no, che non da razzo. Ah, io credia che era sempre una cabeccuria. Fra un poco di razzo nello coso, la residenza è un'altra cabeccuria. Infatti, lui c'ha la residenza sopra la cabeccuria, oppure in soffitta. Già combinenti. Sargenti, o cosa fai? Sargenti, no, è ma niente a quei sargenti, Ma niente, cazzo, mi si abbassa, ma chi su chi si abbassa, cazzo? Ma chi su le omettenti, cazzo, chi si abbassa? Cazzo, ma non è una sindria, ma chi si abbassa? Per carità, cazzo. E poi uno ci passa a fare fare un po' d'aria che si abbassa. No, se no la puoi fare viago. Per carità, a me la muga. Ah, lì poi le sanzioni, così è. No, è affitto nel gaggio. Ah, affitto nel gaggio. Oh, che mi servirebbe, e la puoi si fare le longhe, mi panza. E poi me la tiravamo mangiati, Parigi. Sì, vai. Ma poi a succio cosa è? Bianco niente. Bionda Ti dico non è la bivente di Dio, Edo. No, vino non è bivente. L'inverno non è visti. Oh, dici no, se qui vedi, se qui vedi, roba bianca sempre. Ui. Ebbene, la tenne è messa a posto? No, Gio Mari, l'ho messa così, su quel posto lì, sopra la pianta, ma la ragazza è peggio di andare a Lubuccio. No, non va bene, no. Allora dipende l'apparecchio. No, l'apparecchio non c'ha niente perché mi sente col gommino. Col gommino mi sente. Cazzo, bongo l'antenna, non mi tende mai nulla, figurati. Allora dell'apparecchio, va. Allora l'apparecchio, come stavo dicendo, un tempo. E lui già si ricorda di questo particolare. Allora il suo apparecchio gli dà pazzino, comprando un altro più buono. No, l'ho usato col buffer, quello che mi ha dato Luca, o Gio Mari. L'apparecchio non va a nulla, no. È strano che lo scimo. Mi sembra una cosa strana. Un qualcosa c'è, a noi scimo dire a che cosa, no? Ha detto Luca che l'antenna andava bene quella lì. Non lo so. Falla provare lì adesso. A vedere se lo sento io e se sente lui a me. Ma non ce l'ha qua montata l'antenna, Gio Mari, ce l'ha smontata. Quella lì che mi hai dato tu. Quella lì adesso dice che la deve controllare. Ah, se l'ha smontata già, se voleva fare, intendilo, sì, a provare la ghiva, quindi, ma se l'ha smontata la deve controllare bene. Ma poi anche anche se la metto a pozzo, da lì non uscirà mai da dove la metto. Quella lì sono antenne da mettere sul tetto e basta. Allora metterla sul tetto, Emanuele, cazzo, hai da ragione. Infatti ero qua a capo, gli metto un barilotto, l'aggiungi e forse va arrivi qui su capo che va a Lucca. È la buona della gabbeciuria la buona, è sempre tranquillo, boh! Sì, quello sì, però è inutile che la bongo, che la buona non viene nessuno. Cosa la limonga fa che non viene mai nessuno? Non fa mai nessuno, dicevo che io lo vedo. Da buon vettore, per Bacchisio, va a entrare sempre, no? Ma, cazzo, un po' il 27, un po' il PMR, la questione, no, cazzo. Se ci volete magari il 27 per il sciola e magari il PMR per sempre niente, capito? Boh, allora vediamo, tanto a salire su un attimo, perché mi salgo lì da Antonello, nella bottola di Antonello, 10 minuti, e boh. Fatti allora, cazzo, poi viene, fai questa prova a Burucca, bisogna fare quella prova, se non dovessi uscire, mettendola sul tempo, lì dipende dall'apparecchio, non dall'antenna. O dico, l'antenna sana, quei tipi d'apparecchi non vanno bene. Ah, da lì dovrebbe uscire per forza, perché se non esce da lì, sicuro va a avere problemi d'antenna o... L'apparecchio no, ma sicuramente l'antenna. Se non più la segnata la gabbicchiura, allora va a problemi l'antenna. Un attimino, Veglia. Eccoci qua. Capito, Emanuele? Non è la faccenda. Stai sul tetto e fai le prove. Se non esci dalla gabbicchiura, vuol dire che l'apparecchio, che quello lì non escono con l'antenna esterna. Boh. No. A me dai no, che mi hai inteso il produttore, cazzo, hai inteso il Bacchisio, dovrebbe andare bene. Sì, ma è nella finestra, io ce l'ho nella pianta, Gio Maria, è bassa, e lì sono anche coperto dal muro, dal palazzo, e anche per quello che non esce. Io sicuramente se la metto sul tetto, sicuro che cambiano le cose, perché così... Allora bisogna provare, dai, bisogna tentarle tutte, no? Bisogna tentarle tutte e basta. Adesso fatela mettere a posto, dopo la piazza e vediamo un po' la situazione, capito? Sì, vabbè, quando c'ho tutto per le mani, la metto. Ah, va, non faccio né cave né nulla, non c'è che sta sopra la cosa, papà, dammi il giro. Beh, allora, quanti metri sono quelli che ti ho dato io? Poi se ne attirà un po' con Luca, vediamo un po' se ci arriva quello che ti dà Luca. Ma forse, guardando, forse ci arriva Gio Maria, quel capo che mi ha dato lì, che mi ha dato Luca, col badirottolo, dovrebbe arrivarci, E allora vedo un po', fatela mettere a po', fatela controllare dopo la piazza. E vediamo il risultato, no? Bisogna fare così allora. Domani, ma tu quando sali per sistemare la tua? Per adesso lo lascio così, dai, l'abbiamo controllata bene con Luca, per adesso lo lasciamo così. Capito? Ma se devi salire non vi so problemi, già lo sai che non ti dici niente, Antonello, ti fa alzare benissimo, capito? No, per quello no, non ce n'è problema. Fai su, adesso in caso che lo vedo domani mattina glielo accenno. Se devo salire, a meno che non alzare Duburu e si deve chiamare la canna fumaria a Duburu, magari devi fare qualche cosa a Duburu. Ehi, c'è Mandrone, dall'anno passato, e poi da Pucci siamo Maiola, cazzo, l'ho mandato in retta a fare come ce la giunta, poi più lungo lo bicchiere, cazzo, a poi il bicchiere raso sotto Fumaiola, cazzo, e vabbè. Vabbè, tu si alzi, ma fatti il dovere tuo, no? Che devi accettare, hai dato Sì, ce lo puoi fare pure. Ma e lui già si può fare, capito? Beh, eventualmente una mano non bisogna problema a darti, l'ha capito? Ah, ma non ce n'è bisogno di mano, cosa che mano di buh? Solo a casa a rubarlo con le gaffe. E boh, e fare la ricetta del capo, che mano di buh, mica ti passa a pari o cosa ti passa, nulla. Solo l'antenna si trovo. Solo l'antenna si deve alzare, e la cara mi si passati, non mi si viaggio. Ehi, la cara mi sa fa bene, la cucchia, la cara. Capito? La cara è a viaggio, per cui non mi sa fa bene. Va bene, va. Ciao, ti passa di voi, però allora. E dico che mangia poco. La del pollo, la c'è domani. E lui già ci sono. E la birra, dirle che la bocca è frigorifera, se è frigorifera, che bicchia Eva. Ma fa le mani brutte. Ciao Mari, faccio le mani brutte, sei grasso, che sono tagliendo la testa in cassetta. Cosa c'hai, cosa c'hai, basta di voi in palù. Sono caffittendo la testa in cassetta, va, faccio le mani brutte, dei grassi. Oh, la testa in cassetta, bella ragazzi. E riesce a masticarla. Ciao Mario, se me la macchina giù per Maria da buono, caro. E allora va bene. A che non bisogna fare del delicati pure. E la messa in cassetta, no? Non me la fate a masticarla. Ma c'è già fino a tu, se vuoi fino a mai. Mi hai bocchi con un bucciari. Ciao Mario. E te bala. E bene, il pricchia va. Sì, ciao Mario, siamo a battendo la Basilia. La Basilia, che Basilia se sta facendo? Boh, ma è l'americano, fa vedi? Siamo a Badene, la Basilia! Ah, ehi! Posso immaginare cosa sta facendo, gatta? Vedi se Maria com'è? Già le manco, già le manco la cosa ruola, Marisa. Vedi che Maria del latte, occhio, non ti fidassai! A chi c'è mezzo maniaco, Cazzo, allora ve la di me. Non ti fidanno. Non ti fidanno, occhio sempre. Poi a chi sa cadaredo. Ma con qualche foglio di gassone, Maris. Io si sa paura un gassone. Oh, aspetta, sono cambiato il numero della batteria di un computer. Da voi fino dopo. Vieni, ciao Maris.